Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Monti alla Camera annuncia nei prossimi giorni operazione crescita. Collocati bot per oltre 6 miliardi, ma il rendimento vola al 3,9. Piazza Affari fallisce il rimbalzo. Operazione del ROS contro gli anarchici, 10 gli arresti. Confermato il collegamento con l'attentato ad Adinolfi. Europei di calcio, Prandelli in dubbio se confermare o no Balotelli. Oggi in campo Danimarca-Portogallo e Olanda-Germania. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchia. In apertura il discorso di Mario Monti alla Camera. Il Presidente del Consiglio ha esortato la maggioranza a lavorare in fretta perché con gli opportuni provvedimenti il Paese si garantisce dalla speculazione. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno. Nella sua informativa a Montecitorio, Mario Monti ha fatto il punto su quello che il suo governo sta facendo per affrontare la crisi e in particolare sui rapporti con i partner europei. Siamo in una fase cruciale, ma l'Italia si è rafforzata, possiamo farcela da soli e per questo abbiamo rifiutato i consigli di chi ci invitava a chiedere aiuti al Fondo Salva Stati e al Fondo Monetario Internazionale, ha detto il Premier, che nel suo intervento è anche tornato a porre l'accento sulla necessità di avviare presto interventi per il rilancio della crescita. Se al Consiglio europeo di fine mese ci sarà un pacchetto credibile di misure per lo sviluppo, anche lo spread italiano diminuirà, ha detto Monti. Sentiamolo. Se verranno misure per una maggiore crescita, allora gli stessi mercati finanziari riterranno più sostenibile la finanza pubblica italiana, pagheremo uno spread inferiore, i tassi di interesse scenderanno e le imprese saranno più facilitate anziché penalizzate negli investimenti e quindi questo già metterà più al riparo da contagio. Provvederemo nei prossimi giorni a un altro piccolo concentrato di misure per la crescita. Propongo di non chiamarlo decreto crescita o decreto sviluppo, lo iscriverei piuttosto in una operazione crescita, di cui questo sarà un altro tassello importante. Ecco, Monti, come avete sentito, ha anche anticipato che presto il governo presenterà una serie di misure per la crescita, poi per rassicurare i mercati il Premier infine ha invitato la maggioranza ad accelerare l'approvazione delle riforme che sono all'esame del Parlamento. A te la linea, Adriana. Grazie ad Andrea Viali. E al Premier hanno replicato i leader della maggioranza Angelino Alfano, segretario del PDL, e Pierluigi Bersani, segretario del PD. Sentiamoli. Vede, lei ha sollecitato anche a noi ieri sera l'approvazione dei provvedimenti pendenti in Parlamento. E lo faremo, noi li approveremo, a cominciare da oggi. Un cambio di passo netto e urgente, perché se la linea di politica economica europea o euro-tedesca, possiamo dire così, non cambia, non si vede francamente come l'euro possa alla lunga sopravvivere. L'incontro di ieri tra il Premier Monti e i leader della maggioranza è stato molto positivo. Si è mostrata consapevolezza dell'assoluta necessità di dare prova di coesione perché siamo in un momento molto difficile, lo afferma il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a margine della conferenza dell'ILO. Fondi per la crescita, sgravi fiscali e semplificazioni. La bozza per il decreto sviluppo potrebbe essere presentata venerdì al Consiglio dei Ministri, ma il nodo riguarda le coperture economiche dei provvedimenti. Ragioneria dello Stato e Ministero dello Sviluppo Economico sono al lavoro. La copertura potrebbe arrivare da un diverso regime di tassazione per le polizze emesse dalle compagnie assicurative estere che operano in Italia. Elsa Fornero ancora nella bufera dopo le polemiche esplose due giorni fa sulle cifre fornite dall'INPS sugli esodati e mentre il leader dell'IDV Antonio Di Pietro annuncia una mozione di sfiducia nei confronti del ministro insieme alla Lega Nord, questa volta tocca al segretario della CGIL Susanna Camusso a margine della conferenza dell'ILO a Ginevra commentare le parole del ministro del lavoro che ieri aveva detto che i vertici dell'istituto di previdenza andrebbero rimossi. Questa reazione per cui di fronte ai dati ci sono dei colpevoli la trovo assolutamente intollerabile, ha detto la Camusso. È andata a segno l'asta di bot annuali del Tesoro di questa mattina, ma il rendimento è quasi raddoppiato. Il Ministero dell'Economia ha collocato titoli con scadenza ad un anno per 6,5 miliardi, contro una richiesta che ha superato gli 11 miliardi. Il rendimento però è letteralmente schizzato al 3,9% dal 2,3% dell'asta precedente. Piazza Affari e i listini europei sono in affanno. Sentiamo come stanno andando in questi istanti. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Effettivamente oggi ci aspettavamo un rimbalzo più consistente, almeno per Milano, che da due giorni soffre parecchio, e invece questo rimbalzo non riesce. Milano, per la verità, ci ha provato all'inizio della seduta, è arrivata a guadagnare oltre un punto, soprattutto sostenuta dal poderoso recupero dei titoli del settore bancario, che lo mantengono ma hanno affievolito il loro percorso di crescita stamattina ai titoli del settore. E Milano adesso cede di nuovo lo 0,28%, un calo simile a quello delle altre piazze europee: Parigi meno 0,2, Francoforte meno 0,3, Londra sulla parità. Meglio sul fronte valutario il rapporto euro-dollaro sopra quota 1,25. L'asta di questa mattina dei titoli italiani aveva portato, anche se appunto il rendimento è salito notevolmente, ad un ridimensionamento dello spread fra BTP e Bund sui 455 punti base. Rimane su questo livello, ieri ricordiamo che è schizzato di nuovo a 490. Bene i titoli bancari, come dicevamo, oggi a soffrire sono soprattutto i titoli del settore industriale, con Exor e Parmalat che perdono il 4%, mentre i due migliori titoli sono quelli delle popolari: Popolare dell'Emilia Romagna più 2, Popolare di Milano più 1,79%. Direi che per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Prezzi al consumo stabili nel mese di maggio rispetto al mese precedente. Sentiamo. Il dato non va né su né giù. Da aprile a maggio nessuna variazione dei prezzi al consumo. Anno su anno, il mese appena trascorso ci restituisce un aumento del 3,2%, ma ad aprile il rialzo, sempre anno su anno, era stato maggiore, quindi nei fatti si tratta di una frenata. Dall'Istat spiegano che il calo deriva dalla flessione dei beni energetici non regolamentati, cioè i carburanti, e difatti, sebbene il tasso di crescita resti a doppia cifra, gli automobilisti si saranno accorti che fermarsi al distributore costa un po' meno. Ma a fare la differenza c'è anche il rallentamento della domanda. Infatti, sempre a maggio, il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, i prodotti acquistati con maggior frequenza, è stato del 4,2%, superiore sia al tasso di inflazione, ma ben al di sotto del dato di aprile. Gli italiani non possono risparmiare su abitazione, acqua, elettricità e combustibili, quindi tirano la cinghia su spettacoli e cultura e anche sui servizi sanitari. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo in Grecia, dove resta incerto l'esito del voto di domenica, che si è ormai trasformato in un vero e proprio referendum sull'euro. In diretta dalla Grecia, Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco Vittorio, allora quali novità? Dunque, domenica si va al voto, che si è trasformato in un referendum sostanzialmente sull'euro. Ci sono due fronti che si contendono il successo: il blocco, diciamo, pro-europeo guidato dal partito Neodemocrazia, il partito maggiore conservatore guidato da Antonis Samaras, che punta a restare saldamente ancorato nell'euro senza eccessivi rinegoziazioni, e il fronte contrapposto guidato da Alexis Tsipras, 37 anni, giovane segretario della coalizione di sinistra radicale Siriza, che invece vuole rivedere i patti del prestito, ridurre le misure draconiane pro-austerity, ma restare nell'euro. Intanto però i greci continuano a togliere i soldi dai depositi bancari, c'è una fuga di circa 100 milioni di euro al giorno che ha portato il conto finale a 72 miliardi di euro in meno nei depositi bancari dall'ottobre 2009, siamo anno in cui scoppiò la crisi. Quindi nessuno crede per ora a un'uscita imminente della Grecia dall'euro, ma intanto si ipotizza addirittura l'uso di pagherò per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici in caso le cose non dovessero andare come dovrebbero. Grazie Vittorio Darold. Oggi alle 13.30 Italia Incontro Luce andrà in onda il reportage di Maria Luisa Pezzali, dedicato ai comuni lombardi passati dalla Lega al centro-sinistra alle ultime elezioni amministrative. Sentiamone un'anticipazione. La Lombardia ha svoltato a sinistra, lo hanno dimostrato i risultati delle ultime elezioni amministrative, che hanno decretato il tramonto del duo Berlusconi-Bossi per 20 anni al potere e consegnato le chiavi di molti comuni al centro-sinistra.

Anna Marino ha intervistato il comandante del ROS, Gianpaolo Ganzer. Siamo in presenza di un'organizzazione transnazionale che ha visto la saldatura di componenti italiane e greche in modo particolare, cui si sono aggiunti esponenti spagnoli, messicani, cileni, che hanno dato vita a una internazionale del terrore anarchico, intendeva proseguire questa strategia anti-istituzionale contro gli esponenti dell'economia, quindi le banche in primo piano, contro gli esponenti della cosiddetta repressione, carcerario, centri di identificazione e di espulsione, e contro gli stessi ambienti della cultura, Università Bocconi di Milano, che è stata appunto oggetto di un attentato dinamitardo. Ecco, in Italia si può ricostruire il collegamento con il caso Adinolfi? Ci sono degli elementi che fanno ritenere unitaria la matrice del ferimento Adinolfi, ad opera non necessariamente delle stesse persone, infatti non viene contestato il ferimento Adinolfi, che è oggetto di un'indagine distinta dell'autorità giudiziaria genovese, condotta congiuntamente da polizia e carabinieri, ma lo stesso richiamo nella rivendicazione ad Adinolfi agli attentati ad Equitalia, la denominazione della cellula Olga Iconidomu e la particolare documentazione che abbiamo trovato di comune progettualità tra questa esponente greca e gli odierni arrestati ci fanno appunto ritenere che si tratti di una organizzazione articolata in più componenti, ma unitaria nelle sue progettualità e nel suo percorso organizzativo. Oggi alla Camera arriva il DDL anticorruzione e i voti di fiducia. In diretta per gli aggiornamenti Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Votazione in corso qui alla Camera sulla prima delle tre fiducia che il Governo ha posto sul DDL anticorruzione. È cominciata da poco la chiama nominale dei deputati. Si tratta dell'articolo 10 che riguarda la delega al Governo a varare entro un anno una norma per l'incandidabilità in Parlamento dei condannati in via definitiva. Le altre due fiducie che verranno votate sempre in giornata riguardano gli articoli 13 e 14, e cioè i nuovi reati di corruzione tra privati e lo spacchettamento del reato di concussione. Per domani pomeriggio è previsto il voto finale sull'intero provvedimento. La fiducia è scontata, ma questo voto è comunque un banco di prova per il Governo e permetterà di misurarne la forza. Vedremo se la maggioranza darà prova di coesione e compattezza, così come ha chiesto il Premier Monti. I mal di pancia maggiori sono all'interno del PDL, che voterà la fiducia per senso di responsabilità, ma chiederà cambiamenti al testo in Senato, ed è probabile che qualche deputato si dissoci lasciando l'aula al momento del voto. Vota senza grandi entusiasmi anche il PD. Future Libertà non partecipa al voto sull'articolo 10, ma solo ai successivi. La Lega vota contro. Ricordiamo che il Governo è stato costretto a rinunciare al maxi emendamento sia per lo scontro PD-PDL sia per i regolamenti parlamentari che impedivano di presentarlo. Di qui questa tripla fiducia sui tre articoli più contestati del provvedimento, così come sono usciti dalla Commissione. E da Montecitorio per ora è tutto. A voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi. È una notizia di poco fa, uscita sulle agenzie, dice 5 miliardi di risparmi tra il 2012 e il 2014 attraverso la riforma dei ticket. In una riunione a porte chiuse al Ministero, da quanto si apprende, sono state esposte due ipotesi: una di franchigia in base al reddito con percentuale tra il 7 e il 9 per mille, l'altra di introdurre 6 scaglioni di reddito con ticket modulati per tutti. È stato interrogato di nuovo per 4 ore dai PM di Roma Ettore Gotti Tedeschi, l'ex presidente dello IOR, dimissionato dalla sua carica il 24 maggio scorso. Al microfono di Davide Maria De Luca, Ferruccio Pinotti, giornalista ed autore di numerosi libri di inchieste sul Vaticano. Non si usano quei toni lì per cacciare un banchiere che ha scritto un'enciclica col Papa. Se è stato scelto questa cosa, vuol dire che il Papa e con lui Bertone hanno in mano delle cose piuttosto pesanti relativamente all'operato di Gotti Tedeschi. Posso per esempio rivelare che Carlo Calvi, il figlio del banchiere, mi ha parlato di un conto segreto dello IOR presso una banca italiana vicino al Vaticano, che è stato creato ancora dal padre, il conto numero 800, e che è stato usato fino a un anno e mezzo fa, quindi già sotto la gestione di Gotti Tedeschi. Secondo Carlo Calvi, su questo conto sarebbero transitate cifre importanti. Quindi può essere che, eventualmente anche all'insaputa di Gotti Tedeschi, ma comunque sotto la sua gestione, siano continuate delle operazioni che potrebbero avere scatenato anche un'indagine della magistratura, e questo elemento potrebbe aver indotto la Santa Sede a operare preventivamente nei confronti di Gotti Tedeschi per diciamo scaricare su di lui le responsabilità. E ora gli esteri, di almeno 42 vittime il bilancio della raffica di attentati in Iraq che stamani hanno colpito 7 città, tra le quali Baghdad e Illa. L'attacco più grave è avvenuto proprio ad Illa, dove 2 autobomba hanno fatto 19 morti e 38 feriti. Un intervento militare straniero in Siria non sarebbe la via migliore, secondo il segretario generale della NATO Rasmussen. Proprio Rasmussen ha spiegato che al momento non c'è alcun progetto per un'operazione della NATO in Siria e ha definito un grave errore il fallimento del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel raggiungere un accordo sulle misure per aumentare la pressione su Damasco. E adesso parliamo dei campionati europei di calcio, lo facciamo con Carlo Genta. Buongiorno Carlo. Buongiorno Adriana, dunque siamo alla vigilia della gara dell'Italia che torna in campo domani pomeriggio alle 18 contro la Croazia. Soliti, classici, anche prevedibili dubbi di formazione che riguardano essenzialmente la presenza o meno di Balotelli in campo e un assetto azzurro che però non dovrebbe essere molto diverso da quello visto contro la Spagna. È probabile dunque si vada verso una remake della coppia Cassano-Balotelli. Il CT Prandelli parlerà nel pomeriggio e dunque vigilia azzurra tutto sommato tranquilla nonostante le uscite cassanesche di ieri, che hanno fatto e stanno facendo comunque molto rumore. Ieri è stata una giornata, la prima della seconda fase del gruppo A, seconda partita per il gruppo A, con la Repubblica Ceca che ha battuto la Grecia, l'1-1 tra Polonia e Russia, contornato da disordini, 184 arresti alla fine per gli scontri di Varsavia. Era una gara ad alto rischio e così è stato con gli hooligans in azione. Oggi c'è il gruppo B, un gruppo B che è forse il più interessante fin qui, perché Portogallo e Olanda, due delle squadre più accreditate, se non per la vittoria finale, comunque per fare molta strada, hanno perso il primo impegno. Quindi Cristiano Ronaldo da una parte e Snyder sono a rischio eliminazione. Alle 18 c'è Danimarca-Portogallo e alle 20:45 un'altra partita molto sentita, in passato anche molto pericolosa dal punto di vista dell'ordine pubblico, un classico derby europeo tra Olanda e Germania. La Germania ha vinto la prima gara, l'Olanda l'ha persa, è chiaro che deve provare a battere i tedeschi. 20:45 l'appuntamento, Adriana. Grazie Carlo Gente, ora veniamo invece al calciomercato, con il Milan pronto all'addio a Thiago Silva e anche gli altri big rossoneri potrebbero voltare la faccia al diavolo. La trattativa, ci dicono, sarà lunga, ma vedere Adriano Galliani, controlli e sguardo malinconico per i terminal del Charles de Gaulle di Parigi è tutto un programma. Questione di ore, magari di pochi giorni, ma Thiago Silva vestirà presto la maglia del Paris Saint-Germain, targato Ancelotti e Leonardo e foraggiato dai petrodollari catarioti. Il nodo da sciogliere? Sempre quello, i soldi. I parigini offrono 40 milioni, il diavolo considera quota 45 la base d'asta. Al giocatore un ingaggio annuo tra i 7 e i 10 milioni. Insomma, limati tutti gli zeri, l'accordo è cosa fatta. Ma se entrano milioni in cassa, al Milan potrebbero continuare a partir campioni. Al netto delle pruriginose e incaute risposte a sfondo sessuale, Cassano ieri dal ritiro azzurro ha detto anche un paio di cosette calcisticamente rilevanti. Lui sogna di tornare alla Sampdoria. Non condivide la cessione di Thiago Silva e neppure Ibrahimovic l'ha presa benissimo e ricomincia ad avere un forte mal di pancia. Si sarà arrabbiato, è un delitto perdere Thiago. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto pronto per il premio Strega, in diretta da Roma ci colleghiamo con Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Adriana, e sì, qui la tensione cresce fra le case editrici e gli scrittori, perché stasera a partire dalle 19:30 ci sarà lo spoglio dei voti per individuare i 5 finalisti dello Strega. Insieme alla finale del 5 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, questo è uno degli eventi editoriali dell'anno. I giurati, ossia gli amici della domenica, dovranno scegliere 5 finalisti in una lista di 12. E allora, quali sono i nomi che vanno per la maggiore? Sicuramente Gianrico Carofiglio Rizzoli, che ieri ha conquistato il voto dei giovani, poi Emanuele Trevi, Ponti alle Grazie, con il suo saggio romanzo su Pasolini, molto quotato da Casa Mondadori, Alessandro Piperno, e sempre in Casa Mondadori ma per Einaudi, ha ottime possibilità Marcello Fois, già candidato al Campiello. Se i 4 grandi gruppi editoriali sembrano essere certi, la lotta dei piccoli sarà sul quinto posto. Pare abbiano buone chance Manacorda per Voland e Lorenza Ghinelli per Newton & Compton. Vi ricordiamo che Radio 24 seguirà in diretta lo spoglio dalle 19.30 in poi da Casa Bellonci a Roma, e vi ricordo anche che su www.radio24.it trovate un'iniziativa alla quale potete partecipare. Scegliete la vostra cinquina dello Strega e 5 di voi potranno seguire la serata finale dello Strega insieme ai giornalisti di Radio 24. Benissimo, grazie allora all'Alessandra Tedesco. È tutto per questa edizione curata da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento regia a Fabio Cantadori. Un saluto e un augurio di buona giornata da Adriana Fracchia. GR 24 torna alle 14. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.